Bello, dunque mi per sentito dire che sta la cantina che è in fallimento e lì quasi tutte le famiglie le erano soci della cantina e molti hanno dovuto vendere campagna, molti erano indebitati, finché basta, l'era anima magra, insomma, fra il resto. E in quegli anni lì molti uomini sono andati a lavorare in Germania perché si era aperto l'emigrazione per la Germania e allora qualcuno si è salvato, ha potuto pagare i debiti della cantina attraverso questo lavoro che ha fatto in Germania. Ma guarda, mi del 47 sono andata a lavorare alla cooperativa come commessa. Dunque del 47 che portava avanti la merce, che era uno col cavallo. L'andava a Roveredo a fare i rifornimenti, che quando cominciai a lavorare, che erano ancora le tessere, no? E dopo comincia a venire. Ecco, lì le sta bello perché l'ho viste le banane, non so per dire quelle cose lì, non se le aveva mai viste.